Benvenuti alla lezione con l'El Torah Roma. Oggi procediamo nel discorso di Hasidut dell'Alter Rebbe, dove parlavamo del paradosso del monte basso, il monte Sinai, che da una parte è un monte, non si tratta della pianura, non si tratta di una valle, ma è invece basso, è un monte alto, quindi monte ma basso. Quindi questo abbiamo parlato un po' di questo paradosso nella nostra maniera di prepararci per ricevere la Torah, che dobbiamo da una parte essere bassi, quindi dovremmo essere modesti, umili. Dall'altra parte è importante anche l'idea del monte, e cioè, come abbiamo approfondito la scorsa volta, bisogna avere un po' di motore, bisogna avere un po' di spinta, un po' di riconoscere le proprie capacità, le proprie forze che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato e utilizzarle nella maniera e nella direzione corretta. Sempre approfondendo su questo concetto, troviamo che quando si parla del servire HaKadosh Baruch Hu, cercare di farlo in maniera coerente, allora troviamo che da una parte facciamo un riferimento a una cosa storica. È scritto che il primo Beit HaMikdash è stato distrutto a causa di gravi peccati. Quanto è durato tutto l'esilio causato dalla distruzione del primo Beit HaMikdash? 70 anni, molto bene, è durato 70 anni, e poi è stato ricostruito il secondo Beit HaMikdash. Il secondo Beit HaMikdash, per quale motivo è stato distrutto, dicono i maestri? Per l'odio gratuito, Sinat Chinam, che teoricamente sembra essere minore come problema rispetto a gravissimi peccati come idolatria e così via, non rispetto della vita e dei parametri della vita, eccetera, eccetera. Allora, per quale motivo invece sembra che questa cosa dell'odio gratuito, che, diciamo così, non è un atto, è solamente un sentimento, invece sembra che l'effetto sia ancora peggiore? I maestri spiegano che qualora è possibile, e lo dice la Gemara, i primi, cioè il primo giro, quando il peccato è più chiaro ed è specificato, allora è più facile in un certo senso riparare, perché tu sai dove devi andare a aggiustare, sai dove devi fare teshuvah e rimettere a posto le cose, allora è più chiaro. Quando si tratta invece di qualcosa di più astratto, come Sinat Chinam, tu dici odio gratuito, è molto astratto, è molto fine ed è molto relativo alla situazione, molto soggettiva la cosa, di conseguenza è molto difficile riparare. È estremamente difficile andare a capire, anche prima di tutto riconoscere che c'è qualcosa da riparare, è difficile. Perché? Perché cosa si intende per odio gratuito? Innanzitutto perché è così grave questo famoso odio gratuito? L'odio gratuito è così grave? Non c'è motivo. Ma perché è così grave? Sì, certo, perché non c'è motivo. Allora, perché c'è l'odio? Questo è il motivo per cui l'odio gratuito stesso è grave. Ma l'effetto è così grave perché? Perché è l'apertura verso qualsiasi altro peccato. L'odio gratuito è come dire presunzione. È causato dalla presunzione, è causato dall'idea che io comunque ho ragione. Senza entrare in dettagli, è inutile entrare in dettagli, tanto ho ragione lo stesso. Questo è il motore dell'odio gratuito, quindi l'altro sta nel torto. Se ha ragione o meno sta nel torto, a prescindere sta nel torto, e quindi io sono quello che gestisco come le cose andranno. ci sono diversi problemi. La prima cosa è la presunzione, appunto, prima di tutto nei confronti degli altri, perché di nuovo questo apre la porta a qualsiasi tipo di problematica, di peccato, di mancanza di rispetto e così via nei confronti degli altri, ma non solo. Questo apre la porta anche a un tipo di presunzione nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. Perché se sei tu che decidi, se sei tu che gestisci, allora significa che non riconosci la autorità altissima di HaKadosh Baruch Hu, del creatore. E quindi questo, come credo abbiamo citato in una delle scorse lezioni, come dice la Gemara, quando una persona è presuntuosa, spinge via, fa sì che si togli di mezzo la presenza divina, per così dire. Cioè la presenza divina non si rivela laddove viene spinta fuori. Dov'è che viene spinta fuori? Qualora ci sia la presunzione. E l'odio gratuito, la sinat chinam, è lo stesso concetto, è qualcosa che apre a qualsiasi tipo di male. Ecco, possiamo capire perché è così difficile ripercorrere tutto il discorso dell'esilio causato dal odio gratuito, cercare di risolvere, molto più difficile rispetto a risolvere il discorso del primo esilio, che era forse più grave tecnicamente, ma più individuabile, più chiaro, di conseguenza più facile riparare. Quando parliamo invece di quello che è l'odio gratuito, sinat chinam, è molto più difficile. Per questo c'è scritto che colui che studia la Torah, e questo è il tema del nostro discorso, il prepararsi a ricevere la Torah, quindi lo studio della Torah, osè shalom, fa sì che ci si crei una pace, bepamaglia shel mala o bepamaglia shel mata, cioè nell'ambiente superiore, divino celeste, e nell'ambiente inferiore, nell'ambiente mondano. In che senso? Nel senso che la Torah, essendo appunto quello che abbiamo detto rappresentato dal monte basso, e cioè un insieme di una tenacia, di una forza rappresentata dall'altezza del monte, ma al tempo stesso il monte basso, cioè una profonda modestia, fa sì che si crei una pace tra elementi appunto che possono essere contrastanti, contraddittori e paradossali, come il monte alto appunto, e questo studio approfondito nella maniera che si riconosce questa cosa, crea questa unità, crea questa unione e questa pace. La domanda è, e di questo ci occuperemo ora, qual è la chiave? Qual è la chiave per cercare di creare questo equilibrio? Che chiaramente è una cosa molto difficile. Allora il testo cita un versetto del profeta Isaiah, capitolo 29, che dice: Zeu inyan ve'yasfu anavim ba'ashem simcha. La profezia del bene e del futuro, in tra le varie cose il profeta dice: gli anavim, cioè gli umili, i modesti, aumenteranno la loro simcha, la loro gioia, gioiranno in Hashem in maniera molto più grande. Questo ci fa capire che c'è un legame tra la simcha, la gioia, e la modestia, l'umiltà. La simcha potrebbe essere quella chiave che noi stiamo cercando, la gioia. Vediamo un po'. Chi ne ha simcha, la gioia, se volessimo definire il sentimento di contentezza, di allegria, di gioia, potremmo dire simcha hi hitchazkut vehagbahat hanefesh. La simcha è il rafforzare, il rafforzamento e l'elevazione dell'animo della persona. Una persona che è gioiosa è difficile definirla umile, modesta. La gioia è prorompente, la gioia vuole includere, la gioia vuole far sì che altri gioiscano, è inclusiva, è in un certo senso contagiosa, ok? Quindi è una forza dell'anima. Al tempo stesso, qui parliamo degli umili che sono gioiosi. Quindi come si conciliano questi due aspetti? La spiegazione è questa. È la solamente che simcha ve'agba'azo, Nimshach mina anavave ashiflut dafka. Questa gioia di cui noi stiamo parlando deriva in maniera specifica dalla anava, dalla umiltà, ve ashiflut e dalla modestia. Che vuol dire? Come è scritto nel libro del Tanya, che si chiama Sefer Shel Benunim. Scritto lì, Shemitzah Daguf, una persona vive sempre un paradosso. Ciò che è il sentimento e la direzione voluta dal corpo, cioè dalla parte corporale della persona, e ciò che è voluto e ciò che è il sentimento dell'anima, cioè della parte spirituale della persona, che ovviamente vanno in due direzioni opposte. E allora, quando si parla di una gioia insieme ad una umiltà, in realtà ci si riferisce a entrambi questi elementi. Umiltà e modestia per ciò che riguarda la parte corporale della persona, quindi ciò che è legato alla mia esperienza mondana, i beni materiali, i desideri materiali, il modo di comportarsi con le altre persone, questo deve essere modesto, umile, tutto ciò che riguarda il corpo, tra virgolette. Ciò invece che riguarda l'anima divina, lì si applica la simcha, perché l'anima divina è ciò che ci lega da Kadosh Baruch Hu, è un raggio, una scintilla di Akadosh Baruch Hu dentro di noi, e quella è una cosa che ci porta su, quella è una cosa che ci eleva e ci fa essere gioiosi. Besimcha. Quindi una persona potrebbe essere al tempo stesso modesto e umile, al tempo stesso gioioso e forte. Dipende da in che ambito della vita, dipende da che punto di vista. Infatti, citiamo un versetto scritto nella Torah, Tachat asher lo avadeta besimcha, e spiego di cosa questo versetto sta parlando. Noi abbiamo letto nella parashah appena letta questo Shabbat, tutto il pezzo della Tochachà, e cioè gli ammonimenti, le klalot vengono chiamate proprio maledizioni, prima si parla di grande benedizione. E poi si dice: se però non darai retta alle mie parole, ai miei statuti, eccetera, allora capiterà così e così, tutta una serie di cose molto terribili. Questa cosa in realtà, come gran parte di quello che è scritto sulla Torah, è ripetuta nel libro di Devarim, che effettivamente Mosè, prima di morire, tiene un lunghissimo discorso dove ripete e ricorda agli ebrei ciò che dovranno fare, riassume ciò che dovranno fare dal momento in cui varcheranno la soglia di Eretz Israele. E lui riporta anche tutta questa parte qui, ma con delle variazioni. Tra le varie cose che sono diverse, troviamo che alla conclusione di tutte le maledizioni, c'è scritto nella Torah, tutto ciò perché non avreste servito il vostro Signore, besimcha uvtuv levav, con gioia e contentezza. Cioè, la Rizal, il maestro, grandissimo maestro cabalista Lari, dice: questo capiterà non perché non avreste servito il vostro Signore, ma perché non l'avreste servito con gioia. E cioè, a volte è possibile servire Hashem, ma non servirlo con gioia, ed è come se non si avesse servito. Tale è l'importanza della gioia, dell'elemento gioia da inserire nel nostro rapporto con il nostro servizio di HaKadosh Baruch Hu. E cioè, non diventa più un paradosso. Più la persona apprezza la propria modestia a livello umano, più la persona è umile dal punto di vista, appunto, come abbiamo detto prima, del corpo, più si aumenta la gioia della sua anima. Non solo non è una contraddizione, ma una supporta ed è una conseguenza dell'altra. Visto che la persona riesce a riconoscere la non importanza alla fine dell'aspetto corporale della vita, di conseguenza la sua anima gioisce di più. È normale. Quindi l'aspetto spirituale della propria vita è alimentato dalla meno considerazione dell'aspetto materiale. Meno si considera l'aspetto materiale, non che si deve trascurare, ma si deve capire il fine di quell'aspetto, quindi il fine spirituale dell'aspetto materiale, allora ovviamente si alimenta la simcha della parte spirituale. Quindi l'una cosa consegue dall'altra. Prego. No, penso uno si rapporta, no? Stiamo studiando i perché a vuoto, no? Dice, Sì. se tu ti rendi praticamente ricco perché ti accontenti di quello che c'hai, se tu ti senti forte perché sai Domare il tuo controllare l'istinto, allora istinto. a quel punto Certo. tu sei indirizzato Sei al tu il mondo. vero forte, sei tu il vero ricco, come dice appunto Leone cita il Pirkei Avot, che dice chi è ricco? Colui che è contento di quello che ha. Chi non è contento di quello che ha, ha sempre bisogno di più, quindi non è ricco. Per cui il rapporto nel modo Chi è giusto. forte? Chi doma il proprio istinto. No? Quindi è rapportato a quello che è la tua umiltà, a quel dove tu ti impegni a fare quello che devi fare. E allora nell'ultimo paragrafo vediamo. Ecco perché il monte addirittura si chiama Sinai. I maestri dicono, traggono un'allusione dalla parola Sinai e la legano alla parola Sinà. Cosa significa la parola Sinà in ebraico? Sinà, lisno. Odiare. Odiare. Sinà significa odio. Cosa c'entra il monte Sinai con l'odio? In teoria vorremmo allontanare il concetto del monte Sinai dall'odio. Cosa c'entra? I maestri dicono Sheyarda Sinah al Midot Raot. Quando la Torah è stata svelata sul Sinai, si è sviluppata una Sinah, un odio nei confronti della negatività. Che può essere che si è trasformato l'odio In amore? questa è una lettura un po' così. Sì. Però i maestri dicono, e qui lo citiamo. Leolam yargiza adam yetzer tov al yetzer hara. I maestri dicono nel trattato di Berachot, nel Talmud, la persona all'interno della propria lotta interna che sempre vige in un essere umano tra il bene e il male, tra gli yetzer tov, l'istinto positivo, gli yetzer hara, l'istinto negativo, bisogna le hargiz, la persona dovrebbe cercare di far arrabbiare la sua parte positiva contro la sua parte negativa, cioè essere proattivo nel sottomettere la parte negativa di sé, non dire è più forte di me, io sono fatto così, bensì risvegliare la parte positiva che c'è sicuramente dentro di sé, far, tra virgolette, far odiare a sé la propria parte negativa, tra È un odio, virgolette. tra parentesi, positivo, come Esattamente. il discorso che facevamo sulla gelosia positiva, che Gevurah di uno Chesed, che... vero? Come abbiamo parlato dell'odio che fa parte dell'amore, questo è un odio, tra virgolette, positivo, cioè un odio dovuto per far sviluppare, per far fiorire il bene e la positività. Convogliare sempre tutte le negatività in positività. Esattamente. E qual è un altro aspetto negativo qui che vorremmo convogliare, per come hai detto tu, giustamente, è la presunzione. Anche la presunzione rientra ora in questo schema, in questa cornice, in questo quadro, e cioè la presunzione nei confronti del male, la presunzione nei confronti di quale male? Attenzione, il male che ognuno ha dentro di sé, non nei confronti dell'altro. Nei confronti dell'altro bisogna essere umili e modesti. E lì, se si sbagliasse in questo, si rientrerebbe di nuovo nella porta spalancata dell'odio gratuito. Questo è l'errore. Invece, per quando si dice far arrabbiare, essere presuntuosi, il bene sopra il male, si sta parlando all'interno della propria persona. È lì che va fatta questa operazione, è lì che va fatta questa cosa. Mentre invece, quando si parla dell'altro, lì bisogna fare molta attenzione a non entrare appunto in questa porta molto facile, accessibile, dell'odio gratuito. L'odio gratuito potrebbe anche essere un problema, un piccolo malinteso, un discorso semplice che può avvenire a livello sociale tra le persone. E noi esseri umani siamo fatti in una maniera che quasi niente è gratuito, cioè abbiamo sempre una motivazione. Ma spesso, e questo lo dice anche la scienza, e coloro che studiano la mente umana, che noi spesso creiamo una motivazione dopo che abbiamo già creato, o dopo che già siamo presentati con una situazione o con un sentimento o con quello che è, poi la nostra mente crea una Adatto. motivazione. La giustifica, diciamo, cerca Trova un la motivo per copertura, un ma in maniera atteggiamento. automatica, spesso non ce ne accorgiamo. noi crediamo questo è così perché così e così e così. In realtà non è così. In realtà non lo è in maniera più assoluta, però la nostra mente funziona in questa maniera. Quindi anche quando si dice odio gratuito, uno dice, beh, l'odio gratuito non si applica a me perché io odio quello lì per un motivo valido, non è odio gratuito. C'è una motivazione. Allora, in realtà possiamo includere anche questo tipo di animosità nell'odio gratuito, perché non è garantito che il motivo che io do sia valido o sia vero, anche se è Però, vero, non necessariamente non è valido abbastanza per rientrare cioè, praticamente nell'odio. in tutti i Sì. discorsi, alla fine è più difficile, cioè arriviamo a combattere più con noi stessi per controllarci che con gli altri, nel senso che Assolutamente, questo è il punto. Oh, allora voglio. no, lo so, però diventa ancora c'è una cosa. Vorrei citare le tue parole perché tutti le sentano. Andrea ha detto che in tutti questi discorsi stiamo imparando che dobbiamo lottare più con noi stessi che con gli altri. Ecco, siamo arrivati a Dhamma. E questo è proprio il punto di quello che si studia nella Hasidut, nel Mussar, Confrontarti con gli l'etica altri. ebraica. È proprio questo che i maestri ci stanno Sto vedendo cercando una di munizione, dire qui ci arrivo in dopo. 100.000 diverse maniere. I maestri ci stanno cercando di dire, quando devi usare il tuo occhio sinistro, quando devi guardare in maniera non, diciamo così, positiva, guarda te stesso, non guardare l'altro. C'è una storia carina di un piccolo bambino che poi è diventato un grande Chacham, era figlio di un grande Rebbe, che disse quando era piccolo a suo padre, perché abbiamo un naso, una bocca e due occhi? Un occhio sarebbe bastato, un bambino piccolo. Allora il padre gli ha usato questa domanda per insegnare una grandissima lezione di vita al figlio e ha detto: due occhi sono necessari perché per guardare con l'occhio destro l'altro e con l'occhio sinistro se stessi. Noi spesso quando studiamo tipo quello che stiamo studiando qui, dell'importanza dell'umiltà e la gioia, e come bisogna incanalare la presunzione nella maniera giusta, eccetera, eccetera. Subito ci vengono in mente molti esempi di a chi sarebbero adatte queste parole, non a sé, a chi sarebbero adatte? Ah, questo veramente è preciso per quello lì, e questo è preciso per quell'altra là, eccetera, eccetera. Se così è, abbiamo sbagliato tutto il discorso, bisogna ricominciare da capo. Non è questo il punto. Il punto è: io come rientro in questo discorso? E ognuno di noi ci rientra chiaramente in misura maggiore o minore o in maniera diversa o non diversa, ci rientriamo tutti in questi discorsi. E quindi invece di aspettare che qualcun altro venga a dire a noi, guarda che tu rientri in quel discorso là, forse dovresti, perché è lo stesso discorso che facciamo noi nei confronti degli altri, almeno nella nostra mente, allora invece questo è tutto rapportato alla Avodat Hashem, al servizio di Hashem. Servizio di Hashem significa come tu stai servendo Hashem. Servizio di Hashem non significa come l'altro sta servendo Hashem. Quello è il problema o la gioia sua. La gioia è il problema mio, è come io devo servire Hashem. E quindi tutti questi discorsi in realtà sono rivolti a me. Allora, quando parliamo di odio gratuito, quando parliamo di tutte queste cose qui, credo che ognuno di noi può individuare nella propria vita. Anzi, lancio questo appello a tutti coloro che stanno seguendo la lezione. Rivolgi un attimino a te stesso e a te stessa queste parole, cerca di capire come migliorare in questo senso. Allora cosa accadrà? Troverai gioia. Cosa abbiamo detto prima? Nel momento in cui si rende più umile la parte base del proprio io, allora si rende più gioiosa la parte spirituale del proprio io e la cosa si risente e si avverte proprio nella vita quotidiana. Allora, questo è l'augurio che ora che andiamo verso il momento del dono della Torah, che potessimo tutti noi abbassare un po', rendere più modesta la parte corporale, la parte materiale del modo in cui vediamo gli altri e vediamo noi stessi, e questo automaticamente innalza e fa gioire la nostra parte spirituale, e sicuramente quindi questa diventa una apertura nei confronti della ricezione, cioè del dono, e quindi per noi la ricezione della Torah in maniera molto più profonda. Amen. Vehen yi ratzon. Volevo capire un pochino meglio il discorso.